Su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri per iniziare questo bellissimo fine settimana di metà febbraio. Oggi è infatti 15 febbraio 2013. Ebbene, dobbiamo ricordarlo, ieri era la festa di San Valentino e quindi magari oggi gli innamorati sono più innamorati di ieri e più innamorati di domani, chissà. E infatti chissà come avete festeggiato questo bellissimo giorno, anche come abbiamo ricordato tante volte nel mio programma, e si sa che non è questo il giorno, cioè non è che soltanto oggi, bisognava dedicarlo ai vostri innamorati. Ci doveva essere qualche considerazione in più e magari qualche ricordo in più, qualche pensiero in più in questo bellissimo giorno dedicato appunto non a tutti coloro che sono fidanzati, ma a tutti coloro che si amano e sono amati. Quindi oggi lo ricordiamo ancora e magari c'è chi vuole dedicare qualche bellissima canzone alla vostra amata, anche per magari ricordare questa bellissima giornata di San Valentino. Chissà, potete farlo mandando un sms al 335 56 37 251 o telefonando allo 0921 92 32 92. Oggi vogliamo essere ancora più romantici di ieri e lo facciamo appunto con Ray, Carly Rae Jepsen con This Kiss. Tanti baci da CRM Happy Wake Up, continuate ad ascoltarci. Abbiamo ricordato all'inizio, oggi è il 15 febbraio 2013 e oggi magari dicono che si ricorda appunto la la festa non degli innamorati o dei quelli fidanzati o sposati, ma dei single. Non so se San Faustino, appunto oggi è San Faustino, infatti la chiesa ricorda San Claudio, Santa Giorgia, San Gibfrido e San Faustino, che appunto è il protettore dei single. Ma secondo me no, perché appunto tutti siamo innamorati, almeno della vita, almeno tutti siamo innamorati della vita di qualcuno che ci vuole bene, anche di qualche nostro parente, nel senso affettivo, e quindi noi il 14 febbraio appunto la festa di chi è innamorato, quindi non al di là di sposati, fidanzati, compagni, non compagni, è tutto, secondo me questo è il significato di questa festa, quindi oggi magari si festeggia ancora, dai, e infatti festeggiamo per tutto il fine settimana appunto questa festa degli innamorati, di tutti coloro che amano e sono amati. Quindi tanti auguri a coloro appunto che si chiamano Faustino, Giorgia, Claudio e così via, e tanti auguri a coloro che oggi compiono gli anni. E tra questi vi ricordo che abbiamo Galileo Galilei, che appunto è nato nel 1564, appunto il 15 febbraio 1564. Poi abbiamo un grande personaggio della storia, e Luigi XV, re di Francia. Poi abbiamo Charles Tiffany, gioielliere, Antonio De Curtis, Totò, attore, Carlo Maria Martini, cardinale. Poi abbiamo Florinda Bolcam, attrice, Marissa Sanni, attrice e cantante, e Marina Berenson, attrice, Franco Pini, attore. Poi Ali Campbell, chitarrista e cantante degli UB40, Tiziana Foschi, attrice e cabarettista della premiata ditta. Poi abbiamo Fulvio Valbusa, sciatore, oro olimpico 2006, quindi tanti personaggi importanti anche questo giorno del 15 febbraio 2013, ma la nostra musica è fatta, la nostra mattinata è fatta di musica, la musica appunto di CRM Happy Wake Up, e voi potete partecipare appunto a richiedere la vostra musica sia con l'SMS, appunto abbiamo ricordato all'inizio 335-56-37-251, o telefonando al 0929-92-32-92, oppure dal sito www.crmhappyradio.it, o ancora potete andare su Facebook, e se non siamo tra i vostri contatti cercateci a CRM Happy Radio, anche lì potete richiedere la vostra musica preferita ad ascoltare questa bellissima mattina di sole. A Cefalucci è un bellissimo sole, le temperature sono fresche, ma noi continuiamo con l'amore, con Daniel Power, Cupid. You're the perfect part of me, you're the oxygen I breathe, you're a superstar, a work of art, it's electricity. You're a yes in a world of no's, you're the Beatles to my Stones. It's a sweet romance, a spotlight dance, girl, you shake me to my bones. But every now and then I'll start to slip away, I gotta hear you say, Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. What's gonna give you these flowers tonight? What's gonna ask you to stay? Practice all that I would say it just right. But now there are no words to say. As I watch you kiss him softly, the same way you kiss me, I scream, what am I gonna do it forever now? Tell me, what am I gonna do it forever now? Oh, all the plans we made don't work if you're not around. So tell me, what am I gonna do it forever now? What do I do now? Questa mattina di notizie CRM Happy Wake Up con una bellissima notizia. Sempre si tratta di amore, ma di amore di mamma e figlia. Infatti è nata Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, 2,950 kg. Grande Carmen, grande Enzo Paolo. Con queste parole su Twitter Barbara D'Urso ha annunciato il lieto evento. La nascita del bambino appunto era stata programmata con un parto cesareo proprio nel giorno di San Valentino all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma. È tutto così bello, incredibile e inaspettato che non me ne capacito e non me ne rendo conto, sembra un sogno, avevo detto prima del lieto evento Carmen. Quindi tanti auguri anche da noi, da CRM Happy Wake Up, per questa bellissima notizia. Quando nasce un bambino è sempre la cosa più bella che ci sia. You who smiled when you're in pain, you who soldiered through the profane, they were distracted and shut down. Solid as a fog. Where was your CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying, run as fast as you can. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Fit you like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa, whoa. My mind keeps saying, run as fast as you can. Troublemaker. Era Holly Mars, Troublemaker, con noi Florida, CRM, Happy Wake Up. Cioè, Troublemaker è colui che combina danni, quello l'uomo disastroso, beh, anche la donna, ecco, quella che combina più danni degli altri, ecco, che si specializza in questa pratica. E ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms a 335-56-37-251, telefonare allo 0921-92-32-92, oppure potete seguirci anche webcam sul sito www.crmhappyradio.it o ancora su Facebook CRM Happy Radio. Noi questa scena le vediamo spesso nei film, oppure ce la vediamo spesso quando magari, soprattutto nei piccoli paesi, giriamo per strada, le persone ci vedono e se non siamo fidanzate allora ci chiedono: e quando ti fidanzi? E così colà. Spesso che, penso che tutti un po' vi ritrovate in questa cosa. Oppure siete fidanzate e quindi vi dico: ah, quando vi sposate? Quando vi sposate? Poi siete sposati: ah, quando avete un figlio? Cioè, ogni cosa c'è sempre un problema, si trova sempre un problema, e quindi in Cina l'hanno risolta così. E a volte appunto anche sono stessi familiari a dire: quando ti trovi un fidanzato, quando ti sposi? E queste domande possono diventare decisamente pesanti. Ecco, lo comunichiamo a tutti quelli che fanno spesso queste domande e quindi sono un po' pesanti, lo diciamo noi, e quindi per non farlo dire a quelli che comunque i diretti interessati. In Cina l'hanno risolta così, infatti la superstizione ritiene che le ragazze nubili portino male e siano particolarmente di cattivo auspicio essere singolo in certi periodi dell'anno, come durante il Capodanno. Il noto marketplace online cinese ha lanciato un servizio per le ragazze che vogliono evitare domande dai familiari sulla loro vita di coppia. Permette infatti di affittare un fidanzato con cui andare a cena da genitori o amici, o anche a fare shopping, così anche le persone, magari gli amici di famiglia, vedono e non ti domandano nulla, anche se sempre troveranno sempre una domanda da farvi. E il servizio è nato in particolar modo per coloro che vivono lontano da casa e tornano a casa dalle feste e vogliono soddisfare le aspettative di amici e genitori. Il costo non è proprio popolare, specie se confrontato con gli stipendi medi cinesi. La tariffa è oraria, ma spesso ci sono costi aggiuntivi, ad esempio per il viaggio, per l'acquisto di vestiti, se si vuole che il fidanzato abbia il look che si desidera, che magari faccia contenti anche amici e soprattutto parenti e genitori. Quindi vedete un po', e magari trovate anche questa marketplace anche online, anche per in Italia, e quindi così eviterete domande che danno molto ma molto fastidio. Quindi non so se vi siete ritrovati, io un po' spesso devo dire. Vabbè, lasciamo passare, intanto ascoltiamoci Mika. It's somebody new, but stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know if I see you again. I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know, will I see you again? See you again. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Sleeping in my bed, hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. Hey! I don't know where I went wrong. Hey! But I can write. I'm

e nella ginnastica. Infatti si dice che fare fitness insieme in coppia è meglio, fa sentire bene e soprattutto ci dà autostima e si può bruciare un maggior numero di calorie. E infatti appunto basta un esempio, una corsetta di 20 minuti sul tapis roulant in compagnia del proprio partner per garantirsi il buon mattino il pieno di un buon umore e di energia necessari per affrontare la giornata con il sorriso, mentre lo stesso esercizio praticato alla sera aiuta a rilassarsi e ricaricare insieme le batterie una volta rientrati a casa, magari dall'ufficio. Poi c'è anche pedalare sulla bike o allenarsi insieme con l'ellittica, contribuisce a creare un senso di positiva competizione nella coppia e stimola l'adrenalina. In questo modo si mantiene viva anche la passione. Una corretta attività sportiva inoltre migliora la resistenza, la forza e la flessibilità del fisico, con effetti positivi sulle sessioni di allenamento anche sotto le lenzuola. Vedete un po' quanti benefici porta appunto fare sport insieme, anche perché magari stimola l'altro ad allenarsi un po' e quindi vi stimolate a vicenda. Una buona attività da fare insieme, magari non soltanto a San Valentino, non soltanto oggi, ma per tutta la vita. il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me, CRM Happy Wake Up. Potete inviare un sms al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-9232-92. Inoltre vi ricordo l'appuntamento per questa sera alle ore 21 con Rock Revolution, per i veri fan della musica rock. E appunto ci sarà musica dal vivo e ospiti e tante interviste, quindi intere notizie anche interessanti inerenti appunto al mondo del rock. Poi dal 14 al 17 febbraio CRM trasmetterà in diretta dalla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, 4 ore di diretta giornaliera sui più importanti avvenimenti alla Fiera di Milano. Quindi state in ascolto con CRM P Radio, quindi per ascoltare appunto queste ore di diretta della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che non saranno noiose ma veramente interessanti. Com'è interessante anche lo studio svolto da alcuni appunto scienziati americani riguardo alla possibile figura di un vero leader, ma non figura nel senso mentale, cioè, ma fisica, psicofisica. E infatti si riconoscono inconsciamente caratteristiche di leadership a persone alte, ma soprattutto con un viso lungo. La tendenza si acuisce in tempi di crisi e incertezze. Secondo gli scienziati, le due caratteristiche fisiche possono segnare l'ascesa di un leader rispetto a un altro. altro. Si pensa che altezza, quindi, e viso allungato siano caratteristiche evolute da tempi ancestrali, quando la sopravvivenza dipendeva dalla scelta del leader giusto. Daniel Re, appunto, coordinatore dello studio, ha spiegato: i nostri risultati suggeriscono che ci rivolgiamo al leader dall'aspetto più dominante, specialmente quando ci sentiamo minacciati. Nello studio sono state presentate anche alcuni volontari e le immagini di visi di uomini e donne. È stato detto alle persone sotto test di usare il PC per trasformare le immagini in modo da farli somigliare a qualcuno che sarebbe piaciuto loro come leader del proprio paese in tempo di pace e guerra. Così si è visto che per i tempi di pace la lunghezza apparente del viso aumentava del 6% per gli uomini e rimaneva la stessa per le donne. In guerra invece aumentava del 34,9% per le donne e del 45,8% per gli uomini. Più difficile raggiungere queste conclusioni, secondo i ricercatori, per i politici donna, visto che l'acconciatura può far sembrare il viso più rotondo. Poi il coordinatore dello studio ha concluso: questi risultati suggeriscono che la scelta del leader è influenzata da caratteristiche che nulla hanno a che fare con l'esperienza politica. Non resta appunto che aspettare l'imminente scelta elettorale degli italiani per verificare la presenza di questi canoni. Beh, dai candidati non so chi ha il viso allungato ed è abbastanza alto, ma perché mi sembrano un po' tutti quasi la stessa altezza. Chissà, le risposte ce le diranno gli italiani che quest'anno voteranno secondo coscienza, almeno per quanto io possa sperare. Ma continua la nostra musica di CRM più Wake Up con Of Monsters and Men, Mountain Sun. Ancora il sole splende su Cefalù e noi ci svegliamo ancora di più. So I packed my things and ran, far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled. Made me wonder about their path, and as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Ciao. los tierra ver, saco solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. Credo che tu non sei l'unica, unica per me, la prevedo, la presi che vedevo. Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. Questo era il grande Vasco Rossi a CRM Happy Wake Up questa mattina del 15 febbraio 2013, questa mattina che si prospetta abbastanza, prospetta un fine settimana abbastanza solare. Non so come sono le temperature questa fine settimana, però già il venerdì stiamo partendo bene, quindi mi sa che da sabato e domenica, se non pioverà appunto, si potrebbero fare queste bellissime passeggiate in attesa della primavera, quando arrivi, perché anche se abbiamo avuto poco freddo e ci siamo un po', il tempo ci ha un po' viziati, noi aspettiamo sempre la primavera, nonché anche l'estate, e quindi buttarci nel bellissimo mare di Cefalù. E comunque ricordo ancora i nostri appuntamenti, per chi si fosse messo in ascolto adesso. Allora, abbiamo stasera alle 21 c'è Rock Revolution con Filippo e Simone Brancato, e quindi alle 21 collegatevi al sito www.crmpiradio.it oppure a www.rockrevolution.it.

Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Era Dada Life, Feed the Dada, CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Curreri, con notizie curiose ma anche attuali. Infatti avete sentito poco fa dal notiziario che c'è stata una pioggia di meteoriti in Russia, quasi 500 feriti. Una pioggia appunto di meteoriti ha provocato violente esplosioni a bassa quota nell'atmosfera degli Urali e nella regione centrale della Russia, causando il ferimento di centinaia di persone, per la maggior parte colpite non dai meteoriti ma dalle schegge dei vetri frantumati dall'onda d'urto. Il bilancio preciso è di 474 feriti, tra cui 14 ricoverati in ospedale. Il meteorite appunto ha attraversato l'orizzonte lasciando una lunga traccia di fumo bianco visibile anche a distanza di 200 km. La maggioranza dei feriti, appunto nessuno grave, è stata colpita dai vetri delle finestre infranti a seguito delle esplosioni create dall'impatto dei frammenti. Tutte le scuole sono rimaste chiuse. Inoltre, appena a pochi minuti dall'impatto, hanno preso a suonare anche gli allarmi delle auto. Appunto, le finestre sono andate in frantumi e i telefoni cellulari hanno funzionato a intermittenza. E quindi questi meteoriti non hanno nessun legame, dicono, con l'asteroide 212 DA14. Non c'è appunto nessun legame tra la pioggia di meteoriti in Russia e il passaggio ravvicinato dell'asteroide. Rileva l'esperto di meccanica celeste Andrea Milani dell'Università di Pisa, responsabile del gruppo di ricerca NEODIS, specializzato appunto nel calcolare le orbite degli asteroidi più vicini alla Terra. Tra i due eventi, ha detto, non c'è alcuna relazione. Appunto perché non può esserci relazione, perché tra i due fenomeni c'è una distanza di 24 ore. Per avere un'idea di cosa significa questo intervallo di tempo, ha proseguito, basti pensare che in un'ora un asteroide può percorrere 1 milione di chilometri. Le 24 ore che separano i due eventi si traducono quindi in una notevole distanza nello spazio. Ma questo dà prova della vulnerabilità del pianeta, appunto la pioggia di meteoriti è la prova che non solo l'economia è vulnerabile, ma l'intero pianeta. Quindi dobbiamo stare anche attenti non solo dentro il pianeta, il nostro pianeta, ma anche fuori. E appunto, grazie a Dio, appunto non è successo niente di così grave, però lo spettacolo è bello da come le immagini ci trasmettono, però appunto non è sicuro, non è sicuro. Noi ricordiamo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me, potete inviare un sms al 335 5637 251, lo 0921 92 32 92. E noi adesso ci rilassiamo un poco questa mattina del 15 febbraio 2013 con i Negrita, Magnolia. Lentamente scivola la tua mano su di te, quel tanto che basta per trasformare ogni carezza in un gemito. Ti guardo accaldata a contorcerti tra le lenzuola umide, golosa ed implacabile, forza fammi male finché vuoi. Lo sai, pioggia io sarò per toglierti la sete, e sole salirò per asciugarti bene, vento arriverò per poterti accarezzare, ma se vuoi, se tu vuoi, tra fango e neve impazzirò. Per come ti approcci a questi anni mutevoli, mi piace quel tuo senso pratico, la tua forza e l'ironia. I cieli neri intorno a noi sono soltanto nuvole che dolcemente soffi via, e niente può far male più, lo sai. Lo sai. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. questa era Alicia Keys, Girl on Fire, sempre nella mattina di CRM Happy Wake Up, ad allietare un po' la nostra mattinata, le nostre faccende casalinghe e lavorative oppure scolastiche, anche se ci saranno alcuni bambini, perché appunto sto leggendo un po' nel web che è arrivato appunto il picco dell'influenza, quindi ci saranno molti bambini a casa o anche adulti, perché ce la becchiamo anche noi purtroppo, e quindi magari ci stanno ascoltando e la dieteremo un po' così con la nostra bellissima musica un po' romantica oggi, un po' che spacca, un po' che è carica, ecco, perché ci vuole sia romanticismo sia potenza, sia anche carica in questa mattina di CRM Happy Wake Up. Oggi ricordiamo il 15 febbraio 2013, e anche se ieri appunto è stata la festa di San Valentino, noi ancora ricordiamo oggi il romanticismo di ieri, domani ancora così continuerà per il fine settimana un po' di questo romanticismo radiofonico, possiamo dire così, ecco, con la nostra bellissima musica che continua adesso un po' di carica con i Conor Maynard, con Vegas Girl, e ricorda ancora stasera l'appuntamento con Rock Revolution alle ore 21. Bad girl, I think you wanna play. See you looking so good with your poker face. Bottoms up, like it's your birthday. VIP, yeah, we run this place. Knock it down like you carry the kitchen in like Rihanna. Come on, the world queen bee. Be unthinkable, Alicia. You can go so far if you let go. And I ain't gonna leave without her. This is for the girl that can get down low. The whole club wanna see you go. Shake, shake, like your famous girl. Underneath the covers, intoxicated, you're like a drug girl. Grab a glass, gonna rain tequila. I knock you down like Shakira. The kitchen ain't like Rihanna. You come on the world queen bee. Be unthinkable, Alicia. You can go so far if she let go. And I ain't gonna leave without her. This is for the girl that can get down low. The whole club wanna see you go. Shake, shake like your famous girl. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Tutto resta fermo, il sole sta nascendo, tu dormi sul lenzuolo che è macchiato dalla luce e la polvere. Rimane negli angoli sul comodino accanto. Io non ci riesco, mi giro da una parte. Ho la sensazione netta che tu sappia anche ascoltarmi quando suoni, anche a chilometri di tempo, tempo, tempo. E mi viene voglia di regalarti tutto, tutto quello per cui ho lavorato fino ad oggi. E quelle lettere insieme alle canzoni ho scritto perché i miei pensieri cambiano, svaniscono e ritornano da te. Se non è amore, con il romanticismo di cui vi parlavo prima, adesso appunto abbiamo Noemi, Cos'è non è amore, che è, ho visto appunto nelle ultime pubblicità, che appunto sarà una dei giudici, dei protagonisti del nuovo programma The Voice con Raffaella Carrà, e poi non mi ricordo chi c'era di altro. E comunque dei personaggi veramente di spicco, anche comunque Noemi non è da meno in tutti questi, in questo quartetto, perché ne sono quattro giudici. Non so che cosa si tratta appunto questo programma The Voice, lo vedremo prossimamente sui nostri canali. Non la crisi forse sta coinvolgendo anche l'America, anche quindi i paesi oltreoceano, non solo non vedo di buon occhio appunto questa area di crisi che sta coinvolgendo un po' tutto il mondo, tanto che i detenuti o gli ex detenuti preferiscono ritornare in cella. Ecco, è capitato a un uomo appunto del New Jersey, che è un ex detenuto ormai anziano, ha deciso di terminare i suoi giorni in galera, visto che per buon parte della sua vita la prigione è stata la sua casa e vissuto abbastanza bene. Infatti lo ha confessato mentre stava rapinando una banca, una rapina appunto a mano armata, e ha spiegato al cassiere di non voler far male non voleva fare male a nessuno. Mi restano solo 6 mesi di vita e non ho niente da perdere. Dopo essere stato rintracciato dagli agenti grazie alle telecamere a circuito chiuso della banca, il vecchietto ha spiegato: voglio passare quel che resta della mia vita in carcere, sto meglio lì che fuori. Sapeva appunto che compiere una rapina a mano armata gli avrebbe garantito il risultato cercato. È stato il commento appunto dell'agente dell'FBI che ha condotto l'indagine, e quindi l'ha portato di momento in carcere nella sua bellissima casa dove lui viveva bene.

We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of some rage. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so we're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. E questa era Rihanna con Diamonds a CRM Happy Wake Up. Poi basta parlare di amore, amore, amore, già ci basta la nostra musica riempirci di sentimenti. E parliamo un po' della, di un altro fattore che comunque gli italiani soprattutto hanno a cuore, cioè l'elisir di eterna giovinezza. Abbiamo detto che appunto, anzi abbiamo detto parecchie volte, abbiamo parlato appunto dello sport che aiuta a mantenerci giovani, anche di certi alimenti che ci mantengono giovani. E poi l'altro giorno ho sentito pure le posizioni che ci mantengono giovani, nel senso che stare molto in una posizione tipo quasi perché ci stiamo sedendo in una poltrona, una sedia, uno sgabello. Ecco, mantenersi un po' di tempo in quella posizione appunto stimola l'ormone della giovinezza. Ma ci sono anche altre cose che possiamo fare, soprattutto nell'alimentazione, cioè appunto ridurre le rughe, non farci arrivare appunto quelle rughe che poi non è difficile togliere. E questo lo possiamo fare appunto grazie ai cibi, evitando di mangiare quei cibi che contengono notevoli quantità di AGE, cioè i prodotti avanzati della glicazione. La glicazione è una reazione chimica per cui gli zuccheri liberi quindi portano a rendere la pelle più secca e quindi più dura e quindi a formare con la comparsa delle rughe. E infatti questi zuccheri liberi nel sangue si legano alla proteina formando appunto gli AGE. Questi composti hanno l'effetto di irrigidire la pelle, che perde tono ed elasticità, facilitando la comparsa delle rughe. La dieta è la prima fonte di AGE per l'organismo. Le tossine introdotte con i cibi si sommano a quelle già presenti nel corpo, favorendo una reazione a catena che si ripercuote sulla pelle. Quindi ora adesso quali sono questi cibi che appunto producono molto AGE? Naturalmente naturalmente la frittura mista, che pensate ha 950.000 AGE, poi una fetta di torta, carne alla brace, pensate 720.000 AGE, pasticcini o biscotti, poi la pasta e il pane bianco. Quindi non che bisogna togliere dalla nostra alimentazione questi cibi, badate bene, e infatti poi bisogna sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia, però limitare l'abuso magari a per esempio la frittura una volta a settimana e così via. Anche la fetta di torta non c'è un bisogno particolare per cui dobbiamo mangiare sempre dolci, anche se ce ne abbiamo una voglia matta, eccetera eccetera. Certo, la pasta e il pane dobbiamo mangiarli quasi tutti i giorni, appunto perché sono sempre carboidrati, ma limitare sempre comunque gli abusi. Ma noi continuiamo con la nostra musica. Abbiamo adesso Nicki Minaj con Will I Am. Check it out. I'm not coming down.